Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Gli accordi che sono in piedi per il rispetto. Vabbè, adesso... fatta un po' jazz, no, visto è fatto che un po' come Hendrix, perché volevi dissacrare del jazz in questo jazz, no? Perché oggi è il 4 luglio, festa nazionale per la 216esima puntata di Chiedo Asilo, festa internazionale, anzi. Internazionale, tutti lo sanno, infatti si fa anche vacanza in tante infatti nazioni. Suoniamo l'inno, l'inno di quale nazione? L'inno dell'asilo. Di Chiedo Asilo, di Asilo Republic, questa nazione che stiamo portando avanti ormai da 9 mesi e nazione. Che oggi, sì, è una nazione. Sì, sono un po' piccolo, siamo io, te, il bambino Alberto, c'è più nessuno. Poi c'è Claudia, poi c'è Doonesbury, no, chi c'è ancora? C'è Roberto. Tito! Tito, zitto! Allora, a furia di darci, cominciamo a raccogliere i primi risultati, capo. Ah? Raccogliere i primi risultati, ecco, capo. Hai detto raccogliere, mi è venuto subito un brivido sulla schiena. No, ma fa bene, con questo caldo, se tu sbagli le vocali, io c'ho un po' di farne allora. Infatti, dopo che per primi sollevammo il conflitto di interessi tra i testi delle canzoni di Vasco Rossi e l'età anagrafica dello stesso Vasco Rossi, sì. Adesso veniamo a sapere che Vasco Rossi si ritira dalle scene. Vabbè, sì, è una cosa ma che io non ci credo. Nessuno ci crede, però lui insiste. Dai, o perlomeno un uomo che ha dato così tanto alla musica non si può ritirare, cioè, Vasco, il solo fatto che esista. Vasco ha dato tutto, ha dato anche il fegato. Ma come? Ma se ha il fegato di un bambino? Ho fatto l'analisi del sangue qualche tempo fa e è venuto fuori che sono perfetto. Addirittura l'analisi del fegato, ho il fegato del fegato di un bambino. Sì, ma solo perché se l'è fatto trapiantare. Cosa c'entra? I trapianti sono cose serie. Se fatte bene, assolutamente non invadenti e neanche invalidanti. Che cosa c'entra? Ma niente, così dicevo. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Oh, ricreazione, Drago, ho un'idea. Per questa ricreazione giochiamo a mosca cieca in piscina con delle ragazze nude. Quali? Che ti chiamano e ti dicono sono qui, sono qui. E tu nude. E tu bendato bendà, in piscina, appunto, devi cercarle. Se sono bendato, che me frega. Arrivi se sono al nude. Bordo, ti bevi un goccino di mojito e poi continui a cercarle. Ti piace capito. Come gioco? Per le ragazze qua anche un po'. Sì, mi piace, però non ci sono ragazze, ci sono solo bambine. Non credo so, che sia non il caso. Non c'è neanche la piscina. Io direi che non oggi c'è neanche il mojito. Però poi io cosa ci sto qua a fare? Oh, infatti, oggi c'è l'incontro col bambino Alberto. Come oggi c'è sempre lunedì, che novità così. È? Ma lunedì. Ma perché cappa? Cioè, non ti va più bene. No, volevo la piscina con le ragazze. Nude e mosca cieca e tutte cose che non ci sono. No, comunque adesso come lui? Poi io sono qua apposta ormai. Per far cosa? Mi dovete intervistare, no? Infatti no, lui ti intervista. Allora, bambino Alberto, di cosa parliamo oggi? Ma che intervista è? Vabbè, ormai siamo arrivati a questo oggi? Punto. Testo libero. No, ma oggi libero. Niente intervista testo. Perché ho una lamentela. Avendo una lamentela salta l'intervista. E mi date qualche consiglio? Sì, vabbè, di, cosa, allora, di cosa ti no, devi lamentare? Questo coinvolge tutti, questo coinvolge il paese, Il paese. È una cosa... Vabbè, allora dai, allora, un po' di senso Vasco, civile, va. Vasco Rossi. Ma come va? Si è ritirato. Vabbè. Ormai se ne è parlato fin troppo. Ma sì. Poi voglio dire, è una cosa che. Poi non si è ritirato perché ha detto che non fa più, che i dischi li continua a fare, che i concerti li continua a fare, che solo che non farà le tournée. No, no, è un discorso che andava oltre. Cioè, lui smetteva da rockstar, no? Il suo approccio verso la vita del rocker. Ma non vuol dire cambia. Niente. Cambia. Quindi lui dice: io smetto. Poi, se capita qualche concerto, qualche exploit, allora. Posso farlo. Ma uno si dimette però da rockstar. Però lui si ritira da rockstar. Vuol dire che va a fare la spesa al supermercato da solo, che non ha più nessuno che gli fa tutte queste cose. Beh, se si dimette da rockstar diventa una persona normale. No, ma il problema non è quello che fa lui, è quello che facciamo noi. Perché? Da quando si ritira lui, cioè tutta l'Italia. Cioè cosa? Cosa facciamo? Cioè ormai cioè, tutta l'Italia sa che Vasco si ritira. Ma io non ho mai visto un'Italia senza Vasco. Vabbè, ci credo, sei un bambino. Cioè, da quando sono nato? Vabbè, Vasco è 30 anni che va avanti. No, ma anch'io. Ce lo ricordiamo io a capo, forse l'Italia senza Vasco. No, anch'io, io mi ricordo. Ma cosa dici? Ma non è vero. No, ma, dai, cosa? No. Ma sei nato negli anni 60, ricordiamo. Vasco Rossi, insomma. A parte, Vasco Rossi come? C'è sempre stato. Non c'era nei quegli anni lì. È solo che non aveva il capello. Ma c'ha ragione, no, dai, non c'ha ragione. Era calvo anche quando ero piccolo io. Aveva i capelli lunghi ed era calvo. Sì, adesso eri piccolo, ma non non eri piccolo, quindi, bambino Alberto. Cioè, quindi, tornando a bomba, cioè, l'Italia senza Vasco non c'è più. Ma non sì, vabbè, ma guarda che non è che è morto, non è morto. Infatti, lui va semplicemente, cioè, è stanco, è vecchio, si ritira. No, è vecchio, no. Allora, stanco. Ci sta anche, vecchio, cioè, vabbè, ecco, cioè, adesso è vecchio quasi Vasco. 60 anni Vasco, cioè. Ma chi? Vasco! Vasco! 60 anni, ma 60 anni c'era mio nonno! Ma non mio nonno materno che sta in campagna e zappa la terra, no, quello ricoverato! Appunto! Che sta sdraiato tutto il giorno! Vasco quell'età lì! Vasco alimenta, ma... alimentato artificialmente! Sì, vabbè, ma Vasco! Ha 60 anni, è Vasco 60 anni! Sì, ma non è alimentato artificialmente, cioè forse insomma. Sì, ma dipende da che tipo di alimentazione, capito? Vabbè, oh, non importa, non importa! Adesso... Non importa, anche perché, allora, comunque... vi dico questa che vi mette lì, vi stende! Cioè, se Vasco, cioè... Tu vedi, a 60 anni, ma come fa a scrivere delle canzoni che capisco anch'io? Questo è un po' il bello di Vasco. Sì, ho capito, cos'è sta adesso? Stai calmo. Quando parlo di Vasco mi inalbero. Vabbè, no, ti inalberi. Ma perché ma di che canzoni parli poi? Scusa, Toffì? Toffì è per i ragazzini. Beh, appunto, stiamo parlando di quello. Cos'è Toffì che dice Toffì? L'accappatoio, no? Sono la famosa lì bianco sul divano. Sì, attenzione, però sono dei piccoli affreschi. I momenti di vita. Sul divano è indimenticabile. I gesti, io dico, ma che testo è? Invece no, immagino, guardatelo. Lui che passa, passami la ciocavana. E non c'è. Come non c'è? Sì, che poi a parte il tema dell'accappatoio è stato trattato anche con grande poesia da Paolo Conte, no? Sì. Entra, fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. Qual è la canzone? Anche cosa? Quello di Toffì è l'asciugamano, quello lì sul divano. Tipo l'accappatoio della signora Miffia, no? Cosa c'entra quando adesso? Quando c'è la doccia. No, vabbè, questo mare. Cosa c'entra adesso questo? Non c'entra niente, dai. Si parlava di Vasco, che è vecchio, signora Milfia, anche vecchissimo, lui, senza capelli. Solo gli occhi e la voce forse sono quelli di una volta, però lui è devastato, il fisico è bolso, biascica quando parla. Biascica, mi ha sempre biascicato. Allora Vasco è come mio nonno. È come tuo nonno. C'è una lieve differenza. Perché Vasco adesso non è appunto in un polmone d'acciaio come tuo nonno. Magari in uno yacht con delle ragazze. Anzi, secondo me è in piscina che fa il gioco della mosca cieca, quello che vorrei fare io. Infatti io adesso, se non vi dispiace, vai con Vasco, prova a chiamarlo, magari mi risponde. Prova a chiamarlo, che magari sta giocando a golf. Però non ho il numero. Nella sua villa con Bob Dylan e Neil Young, no? Tito, cosa vuoi? Cosa stai dicendo? Golf, gioca a golf Vasco Rossi con Neil Young e Bob Dylan. Io so che Bob Dylan e Neil Young a Malibu giocano sempre a golf. Sì, ma Vasco, si diverte, a Malibu, no, tipo ma lì. Ma scusate, ma di chi state parlando? Ma non so, chiedilo a lui. Di Neil Young e Bob Dylan. E chi sono? Vabbè, dai, andiamo, che questo qui non posso perdere tempo con uno che conosce Vasco e non sa chi sono gli anni. No, non so come, perché alla fine qui se c'è una cosa bisogna dire che siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non ci sappiamo regolare, ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo voglia di far niente, ma abbiamo solamente. Siamo solo noi che andiamo a letto anche con la mangiamo, che mangiamo anche solo un toast, del resto tanto poi è lo stesso. Drago, perché io sto suonando, devo anche cantare la canzone. Vabbè, allora, che dai. Canzone è questa? Vincete un kazoo, poi non ve lo mandiamo mai, manco rispondiamo ai vostri messaggi. Ma non è vero. Però voi provateci, vero, che canzone è questa? Devi creare comunità, l'unica occasione community. Che abbiamo di Twitter. Creare comunità radiofonica è questo qua del riannuncio, perché qui parliamo un po' col pubblico, scriveteci, Ci andate su Facebook, amicizia. Vedete i video del bambino Alberto, eccetera, però intanto robe, indovinate anche... Chi è che canta...